Due anni fa al Teatro Duse io invitai il carcere, direttrice, alcuni dei detenuti, eccetera, e da lì mi è venuta in mente l'idea, grazie al direttore del Duse e a Luca Sebastiani, di perché non lo ampliamo a tutte le persone? Uscita per motivi spettacolari, non è solo per lavorare, non è solo per andare via, non è solo come permesso o premio, ma come diritto di poter usufruire di ballo, canto, musica, comicità, suono, perché sono persone che non riescono a colmare quella distanza. In tutto l'ho voluto chiamare viaggio nello spazio in presenza di gravità. Quanti chilometri ci sono da noi città allo spazio? Migliaia, migliaia, non lo colmeremo mai. Chi è che andrà nello spazio? Nessuno. È la stessa cosa questa. Chi è che andrà negli spazi angusti del carcere? Allora è un motivo, una piccola iniziativa per continuare a parlare non solo quando è estate, quando è caldo, quando il numero di suicidi si alza, e poi soprattutto perché l'arte, vorremmo anche portare dei quadri della Pinacoteca dentro il carcere, con dei critici che parlano ai detenuti per raccontare l'arte, che non possono vederlo. Quindi c'è un problema di diritto, c'è un problema di sicurezza, c'è un problema di assicurazione. Sono tante iniziative che oggi descriveremo per accorciare, dice, il carcere è al colmo. Bene, noi dobbiamo colmare quella distanza lì. Senti, tu dicevi accorciare qualche tempo fa l'iniziativa anche in Piazza Maggiore della Cella, esatto, per mostrarlo alle persone. Quanto è importante anche avvicinare questa questione è alle fondamentale persone. Ringrazio la Camera Penale perché hanno veramente, io ne feci una per stand up alla fine della fiera 5 anni fa, una cella proprio con le sbarre con delle piante dentro. Lì c'era lo spazio reale, diciamo reale, c'erano due letti che di solito sono 4, poi c'erano la luce del sole che entrava dalla finestra che non entra, però la gente che c'è andata dentro, il tema della claustrofobia, il tema del piccolo, e poi per quanto, e poi perché, perché il tema è anche di un sacco di detenuti in attesa di giudizio, un sacco di detenuti malati, un sacco di detenuti tossici. Quindi il non posto, ecco lo spazio di cui io volevo parlare e volevo che i giornali un pochettino rivivessero. E poi noi attori, artisti, abbiamo il dovere, piacere di poter far sì che ci sia un ponte. Ma non mi faccio più parlare di ponti perché oggi la parola ponte è degradante, tutti usano dei ponti. Però il lavoro, poi voglio fare appunto quella cosa della, faremo una cosa, spero, anche con Fresu, invece, siccome tante persone non riescono a uscire, quando ho fatto uno spettacolo 3 anni fa nelle carceri d'estate, ci sono quelli l'alta sicurezza, ci sono quelli nelle celle di... allora ho chiesto a Fresu, che mi ha dato la disponibilità, di fare un concerto della tromba attorno al cortile, cioè che quindi la musica raggiunga tutte le stanze, l'infermeria, tutte le celle, eccetera, proprio perché il suono non è imprigionabile. Capisco che molti non possono scendere a vedere una spettacolo, ma la musica ti arriva. Allora tutte queste iniziative ci piacerebbe abbinarle insieme alla Camera Penale e alla dottoressa Casella delle carceri, che ci ha dato l'ok a fare cose di questo genere. Il mio sogno sarebbe portare anche dei bambini dell'asilo nel cortile per far sentire ai detenuti i suoni, i canti, le voci di un cortile della scuola, perché di solito quando voi siete in città o se siete vicini alla scuola sentite verso mezzogiorno queste voci, non solo il chiavistello, non solo, ma sono certo di dover parlare di cose difficilissime, perché un genitore dice: ma per quale motivo devo portare mio figlio di 5 anni dentro un carcere? Però per me sono quelle sperimentazioni artistiche. Il quadro non è sempre un quadro dipinto, il quadro è anche il quadro della situazione.